Io intanto ringrazio tantissimo il nostro ospite che è qui con noi e che viene da Bologna e quindi ha affrontato questo viaggio per venire fino qui da noi a Bolzano e parlarci in questa conferenza di un argomento che, come dicevo prima, abbiamo trattato poco, raramente, anche se poi abbiamo raccolto un po' una bibliografia tematica. Matteo Borrelli questa sera ci parlerà di Cercando Radici, alla scoperta dei nostri antenati. Questo è un territorio un po' particolare, no? Dove portare questo argomento, perché ci sono varie storie, ci sono storie antiche, ci sono storie recenti e quindi è un territorio interessato a questo argomento per tanti motivi e quindi siamo contenti di avere con noi un giovane ricercatore, un giovane docente che ci porta le sue conoscenze e ci apre un mondo interessante. Ne approfitto sempre quando ci sono queste conferenze anche per ricordare i prossimi appuntamenti, quello del gruppo di lettura di domani alle ore 17, il gruppo di lettura localmente che presenterà e parlerà del romanzo Jesolo di Tania Reich. Mentre la prossima settimana abbiamo altri due incontri, martedì 13 alle 17.30 ci sarà la presentazione di un libro Sguardi e percezioni, un monaco sudtirolese fotografo del Novecento, è un libro che racconta e mostra le fotografie di un monaco appunto del convento Muri che fotografava dalla sua cella i momenti storici, quindi anche quando sono arrivati gli americani eccetera. Queste sono le nostre radici, sa? Cioè, sono molto, a volte sono recenti, a volte sono antiche. E poi abbiamo invece il 14 maggio alle ore 17.30 le Alpi in fiamme, navigare i monti nella crisi climatica. Quindi poi avremo appunto questa concentrazione più che altro sulla crisi climatica. Bene, invece adesso torniamo indietro nel passato. La ringrazio molto ancora della sua presenza, dell'adesione a questo invito e soprattutto ringrazio anche il nostro pubblico che è qui con noi e che la ascolterà con grande interesse. Arrivederci a voi tutti e buona serata. Grazie mille, grazie. Grazie per la presentazione, anche troppo gentile. Dunque, io sì, l'obiettivo di questo incontro, come altri ne ho fatti in Italia, ne sto facendo, anche troppi forse, devo riposarmi un po', l'obiettivo è quello di far conoscere, aiutare le persone a trovare le proprie radici, no? Questo è secondo me una cosa molto importante, lo ha detto anche la Corte Costituzionale, no? Sul tema del doppio cognome, quando ha detto i nascituri hanno diritto alla propria identità familiare e nel cognome in parte proprio è un'espressione di questa identità, no? Il fatto che il cognome sia anche quello materno è proprio espressione di questo, no? Dell'importanza di conoscere e ricordare le proprie radici. Quindi, senza perdere altro tempo, partiamo subito e io farei una domanda che faccio sempre, secondo me è utile anche poi per capire anche chi ho davanti, e che è la seguente. Chi di voi ha fatto già, o comunque sta facendo, una ricerca sui propri antenati, quindi una ricerca genealogica? Qualcuno? Beh, qualcuno. Bene. Va bene, insomma. L'importante insomma è iniziare secondo me, no? Nel senso che poi con il tempo uno affina la tecnica e migliora come in tutte le cose. Bene, perché andare in cerca di radici? Perché andare in cerca di radici? È una cosa importante, questo l'ha detto Mario Desiati che insomma ricordo è stato anche un premio Strega nel 2022. E ha scritto quest'anno un romanzo molto bello, secondo me, che si chiama Mal Bianco. Mal Bianco è il tipico, la malattia delle piante, no? Che si ripercorre, insomma, qui il tema è invece molto legato a quello della psicogenealogia, no? Al tema di questo trauma che si ripercorre nelle generazioni. Io non sono un esperto di queste materie, io mi occupo soprattutto di archivi, di carta o di archivi digitali, però di archivi. Però è molto interessante, io ho portato questa citazione perché al di là di tutto è un romanzo, però è inventato, lo stesso Arturo dice tutto quanto, è frutto della mia immaginazione, però dice questo, non possiamo scegliere la nostra famiglia, il cognome, le nostre origini, ma possiamo riappropriarcene, no? È una cosa molto importante. Nel senso che al di là di chi siano i nostri antenati, noi non dobbiamo giudicarli, Il genealogista, così come anche lo storico, non è un giudice del passato, però noi possiamo riappropriarci della nostra identità, possiamo riscoprire le nostre radici. E devo dire che oggi penso che in realtà in questo mondo, in questa società così fluida, così multietnica, multireligiosa, vedo anche Bolzano, è una città molto multietnica, vedevo anche qua, insomma, parte, vabbè, tedeschi, italiani, una città di confine, insomma, una zona, diciamo così, di sempre come contesa tra una regione e l'altra, però devo dire, come in tutte poi le città, anche Bologna, che è una città universitaria, l'assenza di radici si sente molto, no? Gli studenti che vengono dal sud bramano sempre di poter tornare a casa, di avere da giù il pacco, no? Con le cose, anche perché è un modo anche per non dimenticare le proprie radici. E quindi oggi c'è bisogno, c'è tanta gente che oggi si sta interessando sempre di più a questo argomento, per vari motivi, anche per la cittadinanza italiana, anche se su questo, come saprete, qualche settimana fa il governo Meloni con un decreto legge di fatto ha bloccato questo processo che andava avanti da molto tempo della richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis, soprattutto degli italo-discendenti dal Brasile e dall'Argentina. E quindi questo ha fatto sì anche che venisse a crearsi un grosso problema anche per quelle persone che stavano già facendo queste pratiche e che ora si sono trovate bloccate. Però la ricerca delle radici riguarda tutti, al di là poi di quali sono le nostre motivazioni. E quindi che cos'è la genealogia? La genealogia è quella scienza, quella disciplina, anche un po' un'arte, che tratta proprio dell'origine, della discendenza di famiglie di stirpi, di tutte quante, non soltanto quelle nobili, quelle importanti, ma di tutte. E quindi l'oggetto della ricerca sono gli antenati, o i parenti, perché i nostri parenti non sono antenati, però è bene conoscerli, perché sapete, in Italia, ad esempio, una delle più grandi società di ricerca eredi al mondo, Cutoro Rig, distribuisce ogni anno 500 milioni di euro di eredità giacenti, cioè persone che muoiono senza un erede diretto e quindi questa eredità rimane giacente e dopo 10 anni nel nostro paese, se nessuno la reclama, va allo Stato. Quindi dico sempre, è meglio reclamarla, quindi è meglio conoscere chi sono i nostri parenti fino al sesto grado, perché è il sesto grado appunto quello che il nostro codice civile riconosce nei limiti appunto della parentela. E quindi ecco, è importante non solo gli antenati, ma anche i nostri parenti collaterali, gli zii, i prozii, i fratelli dei nonni, dei bisnonni e così via. E oggi, dicevo prima, la genealogia non è più soltanto, come era un tempo, la genealogia delle grandi casate, no? Dopo vedremo anche un esempio che riguarda Bolzano, molto importante tra l'altro, digitalizzato questo volume, che trovate sull'archivio provinciale, proprio sulle famiglie nobili dell'Alto Adige. Però i nobili sono in realtà una percentuale molto piccola della popolazione, no? Ma cosa significa? Che noi non abbiamo una famiglia, non abbiamo delle origini? Certo che le abbiamo. E infatti oggi la genealogia interessa tutti perché sono questi tre i principi su cui si fonda, sostanzialmente. Tutti abbiamo una famiglia, ogni famiglia ha una storia da raccontare, e dopo faremo un esempio, soprattutto un romanzo di cui prima parlavo anche con le gentili bibliotecarie appunto su questo romanzo, dopo vi dirò, sicuramente qualcuno di voi avrà visto se non altro la serie TV che ne è stata tratta, e quello è stato proprio importantissimo come un punto importantissimo nel ricordarci che ogni famiglia ha una storia da raccontare, perché non era così scontato, non era così scontato fino a qualche decennio fa. E chiunque può essere genealogista, innanzitutto della propria famiglia. Oggi tutti noi, bene o male, sappiamo leggere e scrivere, quindi bene o male un documento dello Stato civile italiano lo riusciamo a leggere. Io ad esempio non conosco il tedesco, quindi casomai se dovessi leggere qualcosa in tedesco farei un po' fatica. Però diciamo che sicuramente, ecco, abbiamo tutti, se non altro, in nuce la possibilità. Poi, come dice, è importante anche la volontà di fare le cose, che penso sia importante, molto importante. E dice Enrico Genta Ternavasio, tutti possiedono virtualmente una loro genealogia. Tutti noi abbiam 4 nonni, 8 bisnonni, e quindi di fatto ciò di cui si compone la genealogia di ognuno è assolutamente democratico, nel senso che è qualcosa che tutti noi abbiamo indipendentemente dalla nostra nobiltà, ricchezza, condizione sociale o altro. Oggi, proprio per questo motivo, perché la genealogia è divenuta così tanto, no, diciamo, appassionante e così pop, oggi la genealogia è pop, nel senso che è diventata molto appassionante anche per persone che non provengono dal mondo degli studi storici o archivistici, come è il mio caso, ma persone, ad esempio, che vengono da tutt'altro ambiente. Ci sono genealogisti in Italia, ad esempio uno molto famoso, che lui in realtà è un ingegnere elettronico, poi è diventato un genealogista, però era nato come ingegnere. Quindi voglio dire, nella vita non si sa mai poi cosa può capitare, no? La vita è davvero imprevedibile. E oggi il fare genealogia, che è esattamente quello che dico, il fare il presepe, cioè farlo, non comprarlo già fatto, ma come si faceva forse quando ero piccolo io, che si andava a raccogliere il muschio, si mettevano le lucine nelle casine, si faceva proprio il presepe, che era un momento anche di condivisione familiare. Allo stesso modo, fare genealogia significa farla, non farcela fare e non vederla già fatta, ma farla, fare la ricerca. E dopo vedremo come si fa questa ricerca. Fatto sta che oggi la genealogia è diventata la terza attività più popolare del web. Di fatto, la prima attività è lo shopping online. Un nome su tutti, Amazon. Cioè, questo è oggi il motivo principale per cui si fa ricerca online, no? Per cui si va sul web a cercare, comprare, non so, la maglia, comprare qualcosa, un paio di pantaloni. Ecco. Però, ecco, fare genealogia è la terza attività più popolare del mondo sul web. Questo libro si chiama Radici. Questa è la copertina inglese, ovviamente originale, la sua prima edizione 1976. Enorme clamore. Sapete chi fu molto indignato da questo libro? Un politico che a quel tempo ancora non era così famoso come sarebbe diventato, perché divenne un presidente degli Stati Uniti, che era Ronald Reagan. Reagan fu molto indignato perché la serie TV tratta da questo libro, in prima serata portava nel 76 il 90% di share. Qui, l'epoca d'oro, no? Proprio cose che inimmaginabili per la TV di oggi. Oggi abbiamo anche molti più canali, però quello che appunto scandalizzava molto Reagan era che di fatto tanti americani, in un'epoca in cui vi ricordo, siamo negli anni 70, le lotte dei diritti civili per i neri, Alex Haley, l'autore di questo libro, è stato il biografo ufficiale di Malcolm X. Siamo in quel contesto lì, siamo in un contesto in cui Rosa Parks non si alza per lasciare il posto a un bianco, e Ronald Reagan dice, beh, ma 90% di americani che la sera, in prima serata, guardano la storia di uno schiavo nero. E questo indignò molto, no? Il candidato repubblicano, a quel tempo era governatore. Ecco, questo per dire qual era il contesto in cui si colloca questo libro e quale impatto ha avuto. Perché ha detto qualcosa di eccezionale. Se già prima negli Stati Uniti, che non hanno mai conosciuto la nobiltà, il Tea Party, no? Hanno detto no, noi la corona inglese la vogliamo, ognuno a casa sua, e quindi hanno detto bene, noi facciamo le nostre colonie libere, la nostra indipendenza. Ma ha detto non solo le persone comuni, i borghesi, gli schiavi. Lui, che era il discendente di uno schiavo, dice, ma anch'io ho diritto ad avere la mia storia. E questo è una rivoluzione epocale. È davvero epocale. Questo per dire, insomma, questo era solo per dirvi, io non so, qualcuno di voi ha letto questo libro? Per alzata di mano? Uno? Due? Qualcuno ha visto la serie TV nel 78? Forse, ecco, nel 78, ecco, forse quella, però diciamo che Radici ha avuto un grande successo, è 37 lingue, uno dei bestseller più grandi al mondo, ha avuto anche una causa per plagio, però insomma la prima parte soprattutto del libro, che era stata in parte copiata, ci fu un accordo, però insomma per dire fu un libro che davvero ha rivoluzionato la storia degli afroamericani e di fatto poi anche la storia della genealogia. Ricordiamoci che però Alex Haley non era un genealogista, non era uno storico, era un giornalista della Guardia Costiera. Lui faceva parte della Guardia Costiera americana e scriveva per quello che era il giornale ufficiale della Guardia Costiera. E però, appunto, scrive anche questo libro sulla sua famiglia. Questa è la storia della sua famiglia, Kunta Kinte, era il suo più lontano antenato. Era solo per darvi questo input, vi consiglio di leggerlo se ne avrete l'occasione, perché devo dire, è una lettura molto bella al di là di tutto, anche per capire un po' qual è stata la condizione anche degli afroamericani, degli schiavi, È molto interessante. Ma La genealogia è molto importante anche per ciò che riguarda la genetica. Oggi, ad esempio, abbiamo sempre di più un revival di questi suprematismi bianchi, no? Di questo concetto, appunto, il razzismo anche negli Stati Uniti sta riprendendo piede, e devo dire che, ecco, fare un test genetico ancestrale può, se non altro, farci rendere conto che tutti quanti noi abbiamo in realtà un patrimonio di geni molto vari, no? Nel senso, io devo dire un 20% dal Medio Oriente, che sarebbe sostanzialmente dove oggi si combatte la guerra in Palestina, anche in Siria, quelle zone là, un 18% dalla Scandinavia, quindi dalla Norvegia, dalla Svezia, ecco, queste zone qua, e poi tante altre dall'Europa, dall'est ad esempio. Però ecco, questo per renderci conto anche che abbiamo tutti un grande mescolamento di geni, anche perché l'Italia è da sempre stata una porta sul Mediterraneo, no? Questo grande, diciamo così, mare chiuso, e l'Italia al centro, in cui i popoli hanno sempre migrato da una parte all'altra, fin da epoche molto antiche, Ricordiamoci ad esempio la Sicilia araba, i Longobardi, che per noi sono così tanto italiani, ma italiani non erano, tanto per dire, ad esempio il Friuli insomma è stato molto importante per la dominazione longobarda. Per dire, detto questo, un'altra cosa importante che soprattutto lo scorso anno ha avuto una grande risonanza anche mediatica è stata quella del turismo delle radici. Lo scorso anno il Ministero degli Esteri ha dichiarato l'anno delle radici italiane nel mondo, e quindi è iniziata questa, si è ancora sentita di più ancora di prima, l'importanza, no, di far tornare in Italia come turisti queste persone che sono andate via dal nostro paese. Il Veneto è stata, ad esempio, insieme alla Calabria, una delle regioni che di più hanno contribuito all'emigrazione italiana nei secoli scorsi. Queste persone che sono andate negli Stati Uniti, in Brasile, in Argentina, in Nuova Zelanda, in Australia, molti dei quali poi si sono stabiliti lì, hanno fatto famiglia, si sono proprio, diciamo così, accasati in queste realtà, in questi paesi, e quindi farli tornare a cercare i luoghi delle radici. I luoghi delle radici sono sostanzialmente tre: sono la casa, sono la chiesa e sono il cimitero. Questi sono i luoghi delle radici: la casa natale dei nonni, dei genitori, la chiesa in cui si sono sposati, in cui sono stati battezzati, in cui sono stati anche, si sono svolte le esequie, i cimiteri dove sono sepolti. No, questi sono i luoghi della memoria tipici del turista delle radici. E questo è un caso molto famoso: Nancy Pelosi, che è stata l'italo-americana che ha raggiunto la più alta carica negli Stati Uniti, terza carica dello Stato, speaker della Camera, quello che per noi oggi è Lorenzo Fontana, quindi presidente della Camera dei Deputati, italo-americana, è tornata in Italia con tutta la sua famiglia, 17 persone. In questi due paesini piccolissimi, Montenero Domo in provincia di Chieti e Fornelli in provincia di Isernia, ha detto: siamo tornati, dice, un affare di famiglia, no? Per noi è un affare di famiglia, vogliamo vedere questi luoghi in cui i nostri antenati vivevano e da cui sono partiti in cerca di miglior fortuna, perché questa poi era la motivazione. Ma quest'anno, adesso c'è anche un piccolo video che vi faccio vedere, molto carino, un po' kitsch ma molto carino, che riguarda Russell Crowe, che famoso attore neozelandese. Lui è stato il protagonista, come saprete, di Il Gladiatore, questo famoso film, appunto, di qualche anno fa, molto importante, no? Molto, molto famoso anche a Hollywood. Lui è attore neozelandese. Lo scorso anno, proprio a gennaio, non si sa come, non si sa chi abbia fatto questa ricerca, lui pubblica un post su Twitter, quello che oggi si chiama X, e dice: ho scoperto che il mio trisavolo, si chiamava Luigi Ghezzi, ed è nato ad Ascoli Piceno, nelle Marche, nel 1829. Bene, quindi cosa succede? Parliamo di una star, parliamo di un personaggio importante, non nobile, ma importante lo stesso, e quindi nasce questa corsa, questa caccia al tesoro. Tutti vanno, come vedete, questa è una foto pubblicata dall'Archivio di Stato di Ascoli Piceno, che mostra la gente che va a cercare informazioni per riuscire a trovare l'atto di nascita di questo antenato di Russell Crowe. Molto bene, quindi fatto sta che però succede, come la vita è fatta di imprevisti, succede che in realtà si scopre, dopo quasi un mese che queste ricerche, no, di qua e di là, L'archivio di Stato dice: no, noi non abbiamo questo, non venite più perché non ce l'abbiamo, quindi non continuate a chiedere. Si scopre che l'antenato di Russell Crowe non è in verità nato a Fidenza, ad Ascoli Piceno, ma è nato a Fidenza. E c'è un piccolo video che volevo farvi vedere, pubblicato proprio... Aspettate, pubblicato dal sindaco, dal comune di Fidenza, che mostra la scoperta di questo registro. E c'è proprio l'immagine del registro, dell'atto di nascita, quindi vedete... Dalle Marche andiamo all'Emilia, quindi anche un bel passo. Lì il problema era la toponomastica, che è la, diciamo così, una similitudine tra i toponimi. Però vediamo il video, un minuto, proprio molto carino. Che mi connette all'Italia, ora lo so per certo, non è soltanto una questione di predilezioni, un legame di sangue. Pubblicato appunto sulla pagina Facebook del Comune di Fidenza. Questo anche per dire, no, come poi la ricerca è a volte imprevedibile, quindi si è riusciti a trovare questo atto di nascita addirittura molto lontano da Ascoli Piceno, no? Beh, questo era solo per dirvi l'interesse. Comunque Russell Crowe lo scorso anno è stato anche al Festival di Sanremo, ha presentato la sua rock band, ma ha parlato proprio anche degli antenati, di questo suo antenato. Quindi è stato forse la prima volta nella storia del festival che la genealogia è entrata, no, nella serata. Proprio si è parlato di questa storia molto particolare, devo dire, anche perché questo antenato, Luigi Ghezzi, fece naufragio in Sudafrica, lì trovò una ragazza di cui si innamorò e poi andrò a trasferirsi a Nuova Zelanda, dove poi si è nato anche Russell Crowe. Insomma, quindi è stata una storia proprio come dall'altra parte del mondo, no, oltre i confini del mare proprio. Bene, questo, detto questo, era un po' anche per farvi capire quanto in realtà la genealogia, quante sono i legami, no, che legano questa disciplina con tanti altri aspetti, no, dal turismo alla genetica, al tema anche appunto, come abbiamo, della nobiltà, ad esempio, tante tematiche. E quindi insomma è importante, diciamo così, tenere presente una serie di cose che secondo me, ecco, sono utili anche per dare a voi uno spunto di riflessione, perché è evidente che nel tempo che siamo qua non possiamo raccontare tutto, però possiamo dare secondo me qualche spinta, qualche stimolo affinché poi voi raccogliate questa occasione per continuare a fare ricerche, a incuriosirvi nel vostro tempo libero. Bene, questo è un esempio di quello che è un albero genealogico, anche se noi oggigiorno preferiamo usare il termine tavola genealogico, perché albero deriva espressamente sia dall'ambito nobiliare, ma anche dall'albero biblico, da quello che è, diciamo, il mondo nobiliare, tanto quello che è il mondo biblico, no? L'albero di Jesse, quindi l'albero di Gesù, e ne vediamo adesso una rappresentazione, che è questo qua. Qua Gesù, vedete, già crocifisso a questo albero, che è un albero di vite, l'albero della vita, no? Il sangue appunto di Cristo, che è il vino. E qui appunto i suoi antenati, in questa allegoria biblica appunto, no? Jesse che sogna, dal tuo petto nascerà un virgulto da cui deriverà re Davide, poi Gesù. Ecco, questo per dire, ecco, questa è la raffigurazione tipica dell'albero. Moltissime cattedrali gotiche, ad esempio, la raffiguravano sui loro, nelle vetrate. Ad esempio questo invece è il Duomo di Monza, un affresco appunto che trovate. Questo invece è un vescovo tedesco, e questo è il suo albero genealogico. Questo è un albero genealogico particolare perché noi abbiamo in realtà, ad esempio ancora oggi ci sono alcuni ordini cavallereschi che richiedono le prove di nobiltà. Cioè bisogna dichiarare, bisogna dimostrare di essere nobili per poter accedere a certe cariche, così come lo era in passato, no? Certe cariche pubbliche, moltissime cariche pubbliche in realtà, richiedevano moltissime magistrature, non erano elettive. Erano cariche che richiedevano, diciamo così, una prova di nobiltà. E questo vediamo appunto che c'è la persona, qua vedete in basso, i genitori, i nonni, i bisnonni e i trisnonni, ognuno con il proprio stemma araldico. Vedete? Il proprio nome. Questo a dimostrare 16 sedicesimi di nobiltà, cioè fino ai trisnonni tutti nobili. Questo significa il sangue blu. E quindi questo albero genealogico era, diciamo così, un lascia passare per certe magistrature, certi ordini cavallereschi, certe onorificenze, che non erano per tutti, ma appunto richiedevano un pedigree. Oggi noi immaginiamo il pedigree per i gatti, per i cani, per le mostre canine, invece un tempo questo era un tema molto importante, A Trento avevamo il principe vescovo, ad esempio. Insomma, sappiamo che in realtà poi molto spesso le cariche ecclesiastiche erano strettamente connesse all'appartenere a una certa classe nobiliare, no? E la genealogia ha fondato per moltissimo tempo il puntello su cui fondava la nobiltà i propri privilegi, no? Il marchese del Grillo cosa dice? Ma io so io e voi non siete. Esattamente lì sta il suo sangue blu, il poter fare cose che altri non possono fare, perché a lui deriva questo potere, diciamo così, dall'ascendenza che lo precede, dall'albero a cui può far riferimento. E le grandi famiglie, quando si entrava nelle loro case, avevano dei begli arazzi o dei bei affreschi in cui erano mostrati tutti i loro antenati, chi era vescovo, ad esempio i famosi matrimoni combinati, in cui si dice, mia cugina ha sposato il conte, quindi come dire, attenzione, chi entra qui sa che questa famiglia è la famiglia con cui sta parlando. Le alleanze politiche erano molto importanti, questo per dire appunto cosa significava l'albero genealogico. Ma anche la cultura pop vi diceva, questo è l'albero dei paperi di Don Rosa, 1993, Don Rosa legge tutti i libri dei paperi e di fa tutti i fumetti e realizza questo albero per riuscire a capire qual era il grado di parentela che li riuniva. Ma anche uno dei più grandi autori contemporanei, famosa autrice di Harry Potter, proprio parla di questo albero genealogico della famiglia Black. Qua vedete nella razza addirittura questo latinorum, no? Stirps nobilis et gens antiquissima Black, appunto, vedete? Questa è proprio l'immagine, no? Vedete? Tra l'altro dice un albero talmente antico che abbastanza da mostrare un esteso albero genealogico che risaliva al Medioevo. Edward Gibbon dice nella storia dell'Impero Romano le famiglie del Settecento vogliono arrivare al Medioevo, riuscire ad arrivare al Medioevo almeno, a dimostrare molto spesso falsamente la loro genealogia, no? Molte famiglie nel Cinquecento, ad esempio, inventavano di essere parenti, ad esempio, di Alessandro Magno. A un certo punto un famoso falsario, ad esempio, il Papa gli fece tagliare la testa. Però, per esempio, ecco perché c'erano tanti falsari che creavano documenti ad arte proprio per far sì che sembrasse che quella tal famiglia aveva quel pedigree, no? Perché più era antica l'ascendenza, più quindi si potevano vantare certi diritti. E questo è un altro esempio da un film d'animazione della Disney che è Encanto. Questo invece è il mio albero genealogico. Questo è un albero a ventaglio. Io sono quello che trovate qua nel cerchio, nel bottone qua. La parte sotto è destinata ai figli e ai nipoti, quella sopra agli antenati. Questi sono i miei antenati entro il sesto grado, quello che vi dicevo prima, sono quelli che effettivamente sono anche nostri parenti. Ovviamente qui parliamo della linea retta. Padri, madri, poi abbiamo appunto il nonni, bisnonni e così via. I collaterali sono i fratelli, le sorelle, gli zii, prozii. Molto bene. Qui vedete che ci sono alcuni punti, alcune parti, alcuni rami che si interrompono. Si interrompono, uno potrebbe dire perché? Perché non li hai trovati. No, si interrompono in realtà perché queste persone, ad esempio questo è molto chiaro, che si chiama Elia Maria degli Esposti, è perché è un esposto, cioè un bimbo abbandonato. Degli Esposti è il tipico cognome bolognese per i bambini abbandonati, i trovatelli. Andiamo in altre città, cambiano, molto famoso ad esempio a Napoli Esposito, Diotallevi, Diotaiuti, Ventura, Venturi, Proietti, Eco. Sono tipici cognomi appunto che indicano l'origine di trovatello, di bambino abbandonato, no? Che era molto comune, e questi appunto sono quei parenti di cui non possiamo procedere oltre perché non abbiamo documenti. Ma ci sono tante storie che, mentre abbiamo i documenti, adesso vedremo quali sono le fonti, vi farò vedere qualche immagine, qualche fonte, mentre abbiamo appunto le fonti primarie, lo stato civile, ad esempio, no? Che ci consente di ricostruire chi era il nostro nonno, il bisnonno e così via, o figlio di figlio, figlio di figlio, abbiamo anche tante fonti secondarie che ci permettono di ricostruire la storia di queste persone in modo più approfondito. Di dare, diciamo così, una visione a 360 gradi di queste persone, della loro storia, diciamo, no? In un certo qual modo. E questo, ad esempio, è il fratello di mia nonna, Beppino Ravaglia, che è morto in Russia. È morto in Russia, vedete come poi dice Liliana Segre, i corsi e i ricorsi storici. Siamo a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Russia c'è una nuova guerra, in Russia, in Ucraina. E Beppino Ravaglia è morto lì con una cancrena in una gamba, buttato in una fossa comune che è quella lì, il campo 58, campo di internamento, morto lì con un'infezione, morto anche perché, sapete, è una cosa che non si dice quando si dice, quando si dicono queste cose. Per fortuna non abbiamo qui un banchetto, un rinfresco, perché ci sono persone che poi andrebbero via senza mangiare. Cosa mangiavano queste persone in questi campi di concentramento? Gli altri, altre persone, morivano, i cadaveri li abbrustolivano sul fuoco e dicevano: ecco, questo è la cena, perché non c'era cibo, non c'era altro cibo, si mangiavano i compagni morti. E Beppino Ravaglia, ecco, è morto così, e non ha avuto la fortuna di tornare a casa, di avere una moglie, di avere dei figli, e la sua storia è finita lì in quel campo, dove oggi non c'è nemmeno una lapide, perché è una fossa comune in cui riposano più di 500 italiani morti lì. Questo invece è un altro mio antenato, Giuseppe Fortuzzi. Lui è stato un leader della Repubblica di Montefiorino, Repubblica Partigiana, e anche lui è caduto, abbiamo un resoconto della sua uccisione, colpito alla nuca con un colpo di pistola dai tedeschi, poi è stato seppellito in una cerimonia a Montefiorino dai contadini del posto, e oggi si trova lì. Chi conosce Bologna, quello è il sacrario di Piazza Nettuno, di fronte a Palazzo Renzo, che molti pensano sia il palazzo in cui viveva Renzo. Renzo invece, figlio di Federico II, era lì in prigione e morì lì. Grande vanto dei bolognesi che riuscirono a conquistare il figlio dell'imperatore, l'aquilotto dell'imperatore, no? E non lo lasciarono mai. Ecco, quello è appunto biblioteca Sala Borsa, questo lì di fronte c'è il sacrario, lì c'è la sua foto, morto anche lui, giovanissimo. Questo invece è il mio bisnonno, Alfredo Pedrini. Lui, la sua è una storia un po' particolare, nato da due genitori che non si erano ancora sposati, siamo a fine 800, quindi ricordiamoci qual era il diritto di famiglia di quell'epoca, quindi figli illegittimi, lo scandalo che ne derivava, soprattutto in un piccolo paese. I genitori non lo riconoscono, la nonna lo chiede per sé in affidamento, diciamo così. Non c'erano tutte quelle attenzioni, diciamo, che ci sono oggi, quindi viene lasciato alla nonna, qualche anno dopo poi viene legittimato e quindi diventa Pedrini, assume il cognome del padre, fino a quel momento era Corrimbi, era un cognome di invenzione dell'ufficiale dello Stato Civile, e la sua storia finisce lo scorso anno sul portale del Quirinale, dove finalmente sono stati caricati tutti i nominativi dei cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto, cioè coloro che hanno preso parte alla Prima Guerra Mondiale, combattendo con valore, hanno conquistato la croce di guerra a valor militare e poi sono divenuti cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto. E qui appunto il suo nome e la sua medaglia. Bene, arriviamo alla ricerca e alle fonti, quindi l'ultima parte, poi io sono qua per tutte le domande, le curiosità, spero ce ne siano. Molto bene, quindi dove si trovano i documenti per fare ricerca, per trovare appunto i nostri antenati? Negli archivi. Qui ne avete due, quattro, ma possiamo dire molti di più in realtà, dopo vedremo. Il più importante sicuramente qua è l'archivio provinciale, della provincia autonoma, poi c'è l'archivio di Stato, l'archivio del Comune, l'archivio della Diocesi e poi tutti gli archivi parrocchiali, però adesso vediamo. Quindi Anna Maria Buzzi è stata fino a qualche anno fa il vertice dell'amministrazione archivistica del nostro paese. Attualmente il DG archivi è Antonio Tarasco. Anna Maria Buzzi ha detto: è proprio cercando le tracce dei propri antenati che molti utenti appassionati si avvicinano per la prima volta agli archivi e al loro immenso patrimonio. È proprio così, tra tutti i luoghi della cultura, oggi siamo in un luogo della cultura, no? Classici luoghi, biblioteche, musei, aree archeologiche, archivi appunto. Tra tutti questi, sicuramente gli archivi sono quelli meno attrattivi, cioè sono quelli che generalmente, io ho anche tanti miei amici che hanno la mia età, io ho 32 anni, che hanno dei dottorati, sono persone molto colte, però non sono mai andati in un archivio. Ma io cosa vado a fare in un archivio? Perché appunto tra tutti questi luoghi, no, gli archivi spesso ci sono un po' repulsivi, non abbiamo, forse diciamo, ma cosa andiamo a fare dentro questi scaffali polverosi, no? Invece gli archivi sono vivi, no? Sono proprio i custodi della nostra memoria. Anche perché le biblioteche, noi teniamo presente che tutto ciò che c'è qua, in gran parte, a parte i manoscritti, ma insomma tutto ciò che ha stampa, a parte cinquecentine, queste cose molto belle, ma i libri moderni sono stampati in centinaia, migliaia, milioni di copie, quelli che ne hanno la fortuna, pochi. Però gli archivi no. Gli archivi, i documenti sono uno. Quando è bruciato non c'è il secondo, non è che dice: ah, non c'è la biblioteca Claudio Augusta, andiamo alla biblioteca di qualche altro po' a Merano. No, non c'è, non è che se brucia quello, non è che andiamo a Merano e troviamo la copia. Ecco, Ecco, vorrei, e quindi anche da qui deriva l'importanza di digitalizzare gli archivi, perché è un modo anche per avere un'altra copia di riserva, perché purtroppo sapete, ad esempio l'alluvione di Firenze ne è stato un esempio, ma anche il terremoto del Friuli, per dire, questi sono eventi che anche ci mostrano quanto anche i luoghi e i beni culturali sono in realtà fragili e vanno tutelati il più possibile. Quindi tutte le fonti comunque sono importanti, però gli archivi sono sicuramente la fonte più importante, cioè il luogo più importante in cui trovare le fonti di nostro interesse. Le fonti in ogni caso si dividono generalmente tra primarie e secondarie. Le primarie sono le fonti su cui noi costruiamo il nostro albero genealogico, ok? Sono le fonti su cui effettivamente noi possiamo dire Giuseppe figlio di Giovanni, Giovanni figlio di Bartolomeo, cioè riusciamo a costruire la linea di ascendenza. Le fonti secondarie sono quelli che invece ci consentono di dire Beppino Ravaglia è morto appunto al campo 58 in Moldavia, è sepolto in quella fossa comune, è morto per quel motivo, ha fatto il militare lì, ha vissuto là, ha scritto la lettera ai suoi familiari dicendo stasera piangerò, non torno più a casa. Ecco, tutte queste cose sono le fonti secondarie. Quindi sono entrambi molto importanti, ma un albero genealogico per costruirlo, per metterci, no, per riempire le caselle, mettere i nomi, i cognomi e le date, dobbiamo usare le fonti primarie, lo stato civile e i libri parrocchiali. Ok? Tutto chiaro fin qui? Le fonti secondarie sono, appunto, vi dicevo, tutto quello che riguarda la carriera militare, i ruoli matricolari, le liste di leva, i verbali appunto di dispersione, gli atti di morte dei soldati, gli archivi notarili, i testamenti e le donazioni, gli archivi di famiglia, non soltanto le grandi famiglie, penso importante l'archivio Gonzaga, non solo quei grandi archivi, ma anche gli archivi nostri, perché ad esempio noi senza accorgercene tutti noi abbiamo degli archivi, ad esempio molto così scherzosamente, ma non è poi una cosa, non è una cosa scherzosa, ad esempio le bollette, noi dobbiamo conservarle appunto per 10 anni per ragioni fiscali, così come ad esempio gli archivi fotografici, tutti noi a casa abbiamo qualche album di fotografia, adesso casomai abbiamo sempre di più il cellulare, usiamo i mezzi digitali, ma un tempo le foto si facevano col rullino, si sviluppavano e poi si conservavano nei propri album anche molto gelosamente e si mostravano in occasioni speciali a tutti i membri della famiglia, no? Era un modo anche molto bello per essere, no, un momento di convivialità familiare. Poi gli archivi degli istituti assistenziali, gli ospedali appunto degli esposti, ma anche realmente gli ospedali veri e propri, i nosocomi, gli ospedali psichiatrici, ad esempio le scuole, tutti gli enti pubblici, quindi anche le scuole, devono conservare le pagelle ad esempio, quindi la documentazione relativa allo svolgimento delle loro funzioni, ma anche le università. Le università. Le fonti nominative per l'emigrazione sono quelle molto importanti, soprattutto per chi ha degli antenati che sono emigrati all'estero. Il porto più importante per il nord Italia è Genova. Genova, infatti, il CISEI, il Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana, è uno dei più importanti progetti, che proprio ha creato una bellissima banca dati su tutti coloro che sono partiti, quando, su quale nave, la nave è arrivata, in che giorno, dove e quant'altro. Quindi sono molto importanti. Se avete antenati andati all'estero, è un ottimo punto da cui partire. Importante, molto importante, sono i dati personali. Se chiedessimo a qualcuno che prima degli anni 90 che cos'era la privacy, ma che cos'era la privacy? Non si sapeva neanche che cos'era la privacy. Oggi la privacy è una cosa molto importante, no? È uno dei mestieri del futuro, no? Grandissimi studi legali oggi fanno proprio servizio di, diciamo così, consulenze in materia di GDPR, appunto, quindi tutela dei dati personali. Quindi bisogna sapere che si possono consultare, per riassumere, sostanzialmente i documenti che hanno almeno 70 anni. Questa è, diciamo, la strada maestra. Cosa importante, ci dice, ce lo diceva il Ministero dell'Interno, lo ribadisce la Soprintendenza Archivistica, qui è l'Emilia Romagna, ma vale ovviamente per tutta Italia, la legge nazionale, dice appunto ciò che è conservato nei comuni non è accessibile generalmente, perché ciò che lo Stato civile, caso molto particolare, prima vi ho detto i documenti sono una sola copia. Sì, i libri parrocchiali sono in una sola copia, i libri dei battezzati sono una, quello, cioè non ce n'è due, tre copie. Lo Stato civile ne ha due copie e deriva proprio anche da questa, diciamo così, rudimentale ma valida misura anche di prevenzione del rischio che potesse ad esempio una copia bruciarsi o andare distrutta, e quindi si aveva comunque la seconda copia da cui si poteva poi ricostruire anche la prima, no? Ricreare la copia originale, l'altra copia mancante. Quindi lo stato civile è in due copie, uno presso il comune, il secondo presso dove? L'archivio di Stato, generalmente così. Poi passa un periodo in cui si trova in tribunale, adesso in prefettura, perché ogni volta cambiano le regole, però insomma c'è una fase di deposito in prefettura attualmente e poi va in archivio di Stato come ultimo deposito dove sarà effettivamente consultabile. Quindi la copia che però rimane in comune, secondo quanto dice appunto il Ministero, non è mai consultabile, perché può sempre essere utile per quelli che sono gli affari ordinari, l'ordinaria amministrazione del comune che ha prodotto quel documento e che potrebbe avere bisogno di consultarlo per documenti, atti, pratiche amministrative. E poi, in ogni caso, l'anagrafe e lo stato civile conservato in comune non può mai essere consultato direttamente, perché fa fede quel documento, e quindi se qualcuno ad esempio andasse a strappare il foglio, andasse a manomettere quei dati, potendo andarlo a consultare direttamente, sarebbe un grave problema. E quindi cosa si può fare? Solo in alcuni casi, su motivata istanza, una fotocopia che l'ufficiale dello Stato civile rilascia a coloro che ne fanno richiesta, e solitamente poi ovviamente pagando quelli che sono i diritti di segreteria del caso. Bene, quindi quali sono le fonti che troviamo? Questa è una tabella che riassume quello che vi ho detto prima. Dove sono, in quali archivi, dove si trovano, è semplicemente un riassunto di quello che già vi ho detto e vi mostra un po' la situazione. Qui ci dice quanti indietro possiamo andare. Se con lo Stato civile arriviamo sostanzialmente ai primi dell'Ottocento, per quello che riguarda invece i libri parrocchiali arriviamo generalmente al Concilio di Trento, fine Cinquecento, però abbiamo parrocchie, diciamo così, molto brave, parroci molto volenterosi, che su loro iniziativa, ad esempio a Palermo, hanno iniziato nel Trecento, già prima, per una questione di scelta diretta della parrocchia, senza che glielo ordinasse un concilio o il Papa, hanno deciso appunto di iniziare le registrazioni, mentre invece appunto gli atti notarili possiamo arrivare molto più indietro, anche al 300, anche all'epoca, anche a epoche precedenti, dipende appunto, però gli atti notarili sono molto più complicati, sono scritti in latino, richiedono competenze paleografiche, quindi sono più difficili da consultare, molto più difficili. Questa è una tabella invece che mostra quali sono le varianti grafiche più comuni, maiuscole e minuscole, delle parole che troviamo nei documenti manoscritti nello Stato civile italiano, diciamo dell'Ottocento sostanzialmente. E questo è utile per noi oggi, soprattutto che non siamo più abituati innanzitutto a scrivere a mano, non siamo più abituati a leggere un manoscritto e facciamo quindi anche fatica effettivamente, no? Quando ci troviamo di fronte a un testo così. A me fa ridere, io stesso devo dire, non riesco più a scrivere una pagina intera a mano perché dopo un po' ho male al polso, quindi non riesco più. Però vedo che ad esempio i giovani, quelli che so, oggi hanno 15 anni, non sanno scrivere in corsivo, scrivono in stampatello, non sanno come si fa a legare le lettere, cioè è molto diverso, no? Una volta si scriveva 100 volte la A, la B, queste cose che per noi erano noiosissime come ricordarsi i pascoli a memoria, però erano utili perché si imparava a scrivere, no? Adesso invece c'è la LIM, c'è l'iPad, c'è quello, c'è quell'altro, e quindi si è molto disabituati tutti quanti noi a scrivere, a leggere. E infatti un documento come questo, che è scritto molto bene, sono pochi i documenti che troverete scritti così, ma anche perché la cultura di questo ufficiale, che è un ufficiale di Napoleone, è un ufficiale che ha una cultura molto più alta di quella di un parroco e spesso deriva anche da uno status sociale più elevato, scrive molto bene, ma per molte persone a cui io faccio vedere questo documento mi dicono «Ah, io non ci capisco niente in quel documento lì». Invece è scritto molto molto bene, devo dire. Questo è un documento del 1811, Dipartimento del Reno, quindi questi sono documenti che derivano, diciamo, dalla mia collezione, che riguarda i miei antenati, quindi li mostro a scopo indicativo, ma valgono i miei come i vostri, nel senso ognuno può portare ad esempio quelli che vuole. È per farvi vedere come appare un documento e quindi cosa potreste trovarvi di fronte nel momento in cui voleste iniziare a fare la vostra ricerca. E io mi auguro che inizierete dopo questo pomeriggio. Questo è un parroco. La differenza, se qualcuno la riesce a notare, qual è tra questi due documenti? Questo è precompilato, questo è un grandissimo passo avanti. Siamo nello Stato civile disconosciuto, nemmeno l'archivio di Stato di Bologna, che dovrebbe conservarlo, ma non lo conserva perché non ha posto, perché gli archivi di Stato, come le biblioteche, sono luoghi fisici e a un certo punto devono anche scartare delle cose, ma a un certo punto non si riesce più nemmeno a scartare, quindi questo fondo si trova in tribunale e lì rimarrà per sempre, a meno che non si trova una nuova sede. Questo stato civile di Carlo Alberto, il famoso statuto albertino, Carlo Alberto fu anche un grande innovatore nello stato civile, questo è precompilato ed è una grandissima differenza. E qui il parroco viene chiamato ad essere anche ufficiale dello stato civile, perché dice il re, dice, ma voi lo sapete fare, fatelo anche per me. E quindi dice, fatene tre copie, una per voi, una per me, e una la mandate anche al vescovo. Questo è l'accordo, appunto, che lui stringe con il pontefice, e questo è lo stato civile che ne nasce. Questo è lo stato civile italiano del 1907, in questo caso un atto di morte, per esempio, e questo già vedete è molto diverso. Qui sono due atti di morte, vedete i due numeri diviso a metà, appunto, non so se vedete tutti, appunto, diviso a metà, e qui ci sono due atti di morte. Questo è il ruolo matricolare. Questo è il ruolo matricolare del mio trisavolo Celso, Celso degli Esposti, figlio di quell'Elia di cui vi parlavo prima, no? Il primo Elia degli Esposti, da cui poi deriva il cognome degli Esposti. Lui è Celso e partecipa alla Prima Guerra Mondiale, una serie di campagne, e merita la medaglia della vittoria, perché la Prima Guerra Mondiale l'Italia l'ha vinta. Poi è stata la vittoria, no? Non è molto piaciuta all'Italia, da cui poi è derivata anche la seconda, che ha perso, però la prima l'ha vinta e quindi anche al buon Celso gli hanno dato la medaglia della vittoria. Ricordatevi questo nome, perché dopo vi farò vedere una cosa che riguarda Celso, l'ultima slide, siamo arrivati ormai, siamo quasi alla fine. L'altro punto importante è quello di internet. Prima parlavamo appunto degli archivi, no? Vi ho detto appunto, gli archivi sono molto spesso, la maggior parte dei documenti sono in un'unica copia, e quindi è importante anche digitalizzare, non per sostituire, ma per avere un'altra copia. E perché uno che vive come me a Bologna, ma che casomai ha un antenato che è nato a Bolzano, no, ad esempio il mio antenato, devo dire, ha fatto il militare a Merano e si è sposato a Merano, e quindi dopo vive ancora qua, qui appunto in Alto Adige, lui ha fatto la leva qua, ha trovato una ragazza di qua e si è sposato. Però appunto uno come me che vive a Bologna, casomai da casa sua, senza venire qua in archivio, possa già vedere quel documento da casa sua, ad esempio, no? O uno che vive anche dall'altra parte dell'oceano. Bene, quindi qualcosa su internet c'è. In realtà c'è molto e ogni giorno aumenta. Il sito più importante che abbiamo a livello mondiale è Family Search, che tra l'altro ha patrocinato anche questo evento, insomma lui ha fornito anche il patrocinio a questa conferenza come ad altre, e Family Search appunto ha raccolto in questo portale 4 miliardi di documenti digitalizzati, tantissimi sono anche italiani, stanno continuando e stanno venendo indicizzati. Cosa significa indicizzare? Significa che in un documento, quello che avete visto prima, no? Questo documento qua, tanto per farvi capire, in ogni atto c'è scritto nome, cognome, il luogo in cui è, in questo caso è una morte, dove è morto, quando è morto, chi erano i testimoni e quant'altro. Indicizzare significa tirare fuori dal documento quelle informazioni e metterle in un database, in modo che andando a cercare, in questo caso, Giorgio Anselmo, morto il 12 luglio, mi appare direttamente il documento a cui si collega. E quindi è un grandissimo passo avanti che consente di fare in pochi minuti una ricerca che molto spesso può richiedere giorni. Questo però, dico anche, forse toglie anche un po' del brivido della ricerca, no? Perché la ricerca, dicevo prima, fare genealogia significa anche immergersi nel lavoro dell'archivio e sudare il lavoro della propria ricerca, quindi arrivare alla fine a quel risultato dopo esserselo guadagnato. La genealogia, almeno fino ad oggi, ha sempre aiutato molto, secondo me, a riappropriarci di un tempo lento, diciamo anche della pazienza, perché oggi corriamo, invece la genealogia richiede tempo, non si può al primo ostacolo buttare via tutto e andare via, bisogna avere pazienza e continuare. Quindi dicevo appunto, sta facendo questo lavoro, si accede molto semplicemente con un account che si crea gratis, quindi nome, cognome, password, un'email e si entra. E tutto quello che c'è è gratuito. Grazie all'accordo tra Family Search appunto e il Ministero della Cultura è nato Portale Antenati. Portale Antenati, che è il portale di riferimento nazionale appunto per la ricerca genealogica, che nasce proprio nel 2011 sulla scia di questa grande richiesta che c'è da parte del pubblico. Cioè nascono, come sapete, anche la genealogia risponde alla regola del mercato secondo cui, no, domanda appunto è offerta, cioè appunto quello che si chiede, appunto, e uno dice, beh, c'è questa richiesta, allora si cerca di offrire un servizio che cerca di rispondere a quella domanda. E Portale Antenati, appunto, questa è la pagina dell'archivio di Saulo di Bolzano, che purtroppo in questo caso però non prevede una digitalizzazione, diciamo, dei suoi fondi. Perché? Perché ad esempio lo Stato civile non lo possiede, ad esempio. Però, ecco, per esempio, molti altri documenti, molti altri archivi invece hanno già messo online tutto lo Stato civile che possiedono, come vi dicevo, e stanno adesso iniziando a caricare tutti i ruoli matricolari e le liste di leva, cioè i documenti militari, la documentazione riguardante la leva militare. La stanno digitalizzando e la caricheranno. Parliamo adesso di 140 milioni di documenti. Quindi parliamo già di una cifra ed è destinata ad aumentare di mese in mese, perché capite, si fanno degli aggiornamenti periodici in cui si carica un po' di documenti. Non si può mettere tutti insieme in una volta, anche perché il sistema deve essere in grado di sostenere l'aumento, no, di questo quantitativo, soprattutto perché questi documenti sono ad altissima definizione. Non possiamo mettere un documento in cui lo apri e non si vede più, si sgrana e non si legge, deve essere leggibile molto bene, si può scegliere la gradazione di intensità bianco e nero, si può proprio scegliere l'ombreggiatura, quindi in modo che sia più facilmente leggibile anche in base alle diverse capacità visive di ognuno. Ecco, quindi è un grande progetto, e anche questo appunto sarà, si potrà fare una ricerca man mano mettendo nome e cognome, vedete qua appunto, cerca nei registri, cerca per nome. È un progetto ancora all'inizio, ad esempio su Roma ad esempio c'è qualcosa, su Bologna ad esempio non c'è ancora nulla. Per dire, si va avanti, perché sembrano cose semplici, ma sono cose queste fatte a manoni dai volontari, non sono fatte dai è gente molto spesso che lo fa volontariamente, lo fa gratis, quindi, e nei tempi che ha. L'applicazione che si vuole fare, il miglioramento, è di utilizzare l'intelligenza artificiale. Si è già fatto, l'obiettivo è, FamilySearch dice, nei prossimi anni caricare un documento sulla piattaforma. Sarà quindi caricato, reso disponibile, indicizzato e sul database in 24 ore. Questo è un obiettivo che si prevede di raggiungere nei prossimi 5 anni. Capite quanto ci vuole anche di investimento per usare queste tecnologie, che perché parliamo di miliardi di documenti. Questo appunto è l'archivio Saulo di Bolzano. Due fonti che segnalo sono la documentazione sugli internati militari italiani, molto importante, proprio il Parlamento, sapete, anche approvato appunto la legge sulla giornata nazionale degli internati militari italiani, 20 settembre, una cosa molto importante, gli italiani che scelsero di non tradire l'Italia nonostante, appunto, nonostante tutto, e quindi come tali vennero trattati dai tedeschi come nemici, e quindi tanti, molti non tornarono. E quindi questo è un grosso problema. E qui c'è tutto l'elenco, la maggior parte appunto non sono tornati. Questi sono invece gli attenzionati, cioè la questura di Bolzano, l'elenco dei sovversivi nel 1930. Siamo nel regime fascista, insomma, in quel contesto lì, questo è il regime degli attenzionati, insomma, tanto per capire, è un bel registro anche questo. Siamo in quell'epoca lì, tanto per intenderci in che periodo siamo. Questo è l'archivio provinciale. Sull'archivio provinciale due importantissimi progetti, questo forse lo conoscerete. Questi sono gli registri parrocchiali dell'Alto Adige, è stato un progetto molto importante a cui FamilySearch proprio ha contribuito, un progetto molto antico, in realtà è iniziato tempo fa, poi è andato avanti negli anni, però un progetto molto importante. E quindi ci consente di visualizzare gli archivi parrocchiali, i libri parrocchiali, cosa che ad esempio moltissimi altri territori non hanno. Bologna, la mia diocesi, assolutamente no, Nisba, nada, non ci sono documenti online, bisogna andare nella parrocchia e appunto andando dal parroco, chiedendo il giorno che è disponibile e poi andare quando è possibile. Questa è un'ottima fonte, quindi vi do anche qualche consiglio, poi sarete voi anche andando a casa a consultarla, perché qui parliamo di tantissimi documenti, parliamo di registri che vanno dal 1565 al 1923, quindi una quantità di parrocchie e di registri davvero importanti, che sicuramente per chi ha degli antenati di questo territorio possono aiutare molto ad andare indietro nel tempo stando seduti a casa, ecco, ed è molto utile. Questo invece è quello che vi dicevo prima, è questo libro appunto sulla genealogia di queste famiglie nobili, di questo canonico appunto che tra il 700 e l'800 realizza questo volume, e quindi è stato digitalizzato, una copia, in realtà non l'originale, ma una copia è stata digitalizzata, e che, come dice appunto l'archivio, costituisce a tutt'oggi la più completa raccolta di tavole genealogiche, quindi già compilate, okay, di oltre 500 famiglie dell'antica nobiltà tirolese. Se qualcuno di voi ha un antenato nobile di questo territorio, li trova già alla tavola, quindi insomma addirittura trova già il lavoro fatto. Quindi per dire, ovviamente, ecco, non è però, non tutti casomai hanno un antenato nobile. Questo è l'archivio storico invece del comune di Bolzano, molto interessante. Ci guardavo qualche giorno fa, oltre anche ad esempio, vi faccio vedere, è anche quello del fatto che c'è un elenco di tutti i sindaci borgomastri di Bolzano dal 1449. Non è una cosa scontata, perché anche Bologna ad esempio non arriva circa primi 800, insomma sul sito internet si trovano alcune cose dell'800. Però ecco un elenco ininterrotto di tutti i sindaci di un comune fino addirittura a metà del 400 è davvero interessante, insomma, avere questa fonte. Ed è probabile che qualcuno di voi fosse in qualche modo imparentato con qualcuno di questi sindaci o borgomastri della città di Bolzano, insomma. L'altro sito invece sempre del comune di Bolzano, questo Boisto appunto, qua ci sono vari, diciamo, visto vari atti riguardanti appunto i protocolli del consiglio comunale, che possono essere utili anche quelli nel momento in cui si trovino riferimenti a un antenato, a qualche delibera che il consiglio ha preso in riferimento anche a un terreno che poteva essere di una certa famiglia, quindi non si sa mai che anche quella possa essere una fonte già digitalizzata che possa esservi utile, perché anche quella è già lì, documenti sono sfogliabili, ci sono in gran parte, già una buona parte è stata resa disponibile. Qui abbiamo la soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige, anche questo è interessante, ci sono una pagina ancora in allestimento perché questo sito è stato rinnovato da poco, c'è una pagina sugli inventari, le soprintendenze archivistiche che sono organi di vigilanza del sistema archivistico di tutti gli enti pubblici del territorio su cui hanno giurisdizione e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, conservano per legge una copia degli inventari di tutti questi archivi, cioè sanno che cosa c'è dentro ognuno degli archivi di tutto questo territorio. Quindi è molto utile perché io dico, ah, che cosa c'è in quell'archivio là? Scarico dal sito della soprintendenza l'inventario in cui mi dice c'è questo, questo, questo e questo. Quindi mi evita anche di fare un giro a vuoto nel momento in cui so già che quella cosa che sto cercando non si trova in quell'archivio, o al contrario si trova in quell'archivio e quindi sono sicuro che posso andare, come dire, con maggior sicurezza di trovare quel che sto cercando. In questo caso, in questo momento non c'è, lo trovate però su beni archivistici, vedete appunto nella sezione, poi ci sono inventari. Io ho messo la home page per farvi vedere come si presenta perché la pagina ancora è in costruzione. Finisco con quest'ultimo sito, Ufficio per la tutela della cultura, della memoria e della difesa. Il governo Meloni lo ha rinominato così nel 2023, si chiamava fino a quell'anno, per un secolo si è chiamato, fondato tra l'altro proprio un secolo fa, quindi in epoca mussoliniana, si chiamava Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti. Era il commissariato da sempre esistito, la Prima Guerra Mondiale nasceva con l'intento di onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, grande progetto, fu, penso forse non so se a Bolzano ce n'è uno, i parchi e i viali della rimembranza. Ogni albero piantato in onore di un caduto della Prima Guerra Mondiale, tantissime città italiane avevano questi parchi, questi viali, e ogni città aveva un comitato che si occupava proprio della gestione di queste aree pubbliche destinate al ricordo dei caduti della Grande Guerra. Si chiama così, Prima e Seconda Guerra Mondiale, la banca dati di tutti i caduti. Se avete un antenato morto nella Prima o nella Seconda Guerra Mondiale, morto o disperso, ci sono anche tanti dispersi purtroppo, soprattutto nella campagna di Russia, abbiamo tantissimi dispersi, 100.000 sono stati tra morti e dispersi, quindi ne abbiamo davvero tanti. Detto questo, mettendo il suo nome e cognome nel database che trovate, banca dati, apparirà i suoi riferimenti, mandate una mail con una scheda, cioè un modulo da compilare, firmare, mandare la carta d'identità e vi manderanno tutta la scheda completa con la storia di questo vostro antenato e dei tentativi fatti anche per ritrovare la salma, perché molto spesso la salma non si trovava e sapete, se non si trovava il corpo e non c'era un atto di morte, non c'era la pensione di guerra. Quindi le vedove rimanevano con un figlio disperso, senza i soldi, perché non si sapeva, non è morto, non si sa dov'è, E quindi questo era un doppio, no? Un doppio problema. Quindi appunto, anche per dire, tutti i verbali di tutta la ricerca e tutto quanto. E quello che è successo, insomma, a queste persone. Molto importante, perché tutte le famiglie, almeno fino ad oggi, tutti, io tra prima e seconda guerra mondiale ho 16 caduti e dispersi nella mia famiglia. Quindi questo per tra i parenti di sesto grado. Se andiamo oltre sono più di 30. Bene, finisco dicendo, facendovi vedere questo strumento che proprio questa settimana l'archivio di Saudi Modena aggiornerà. Abbiamo finito l'aggiornamento, 500 pagine, siamo arrivati a 500 pagine, questa mappatura generale di tutte le risorse online per la ricerca genealogica in rete. È uno strumento che io ho realizzato nel 2022 per la mia tesi di laurea, poi è stata ampliata, pubblicata sull'archivio di Stato di Modena, poi anche da quello di Livorno, poi sul Comites di Washington presso l'Ambasciata d'Italia, e poi quest'anno verrà riaggiornato e forse lo presenteremo, forse la prossima settimana a Piacenza. Comunque, detto questo, per dire un po', ecco, lo trovate, è tutte le fonti descritte, ogni archivio, ogni documento che trovate, diviso per regione e provincia, cliccabile, ci sono più di 1500 link che si possono cliccare. Cercate Bolzano, di ogni archivio presente che trovate, di ogni risorsa, c'è scritto che cosa c'è e cosa potete trovare. Le cose che vi ho detto molto brevemente le trovate descritte in modo più approfondito e più dettagliato. Poi ovviamente il link vi conduce al sito e lì potrete fare le ricerche. 500 pagine, 1500 link nell'ultima versione. Finisco dicendo dei cimiteri, vi ho detto che sono uno dei luoghi della memoria. Bene, sono veramente un luogo della memoria e spesso, questo è il Cide Cervi, insomma Papà Cervi, 80 anni appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, lui disse appunto, divenne assessore del comune di Gattatico pochi anni dopo la fine della guerra, e lui scelse per sé l'assessorato ai cimiteri. Dice, sì, perché io, dice, per me è un doppio ministero, un ministero della giustizia e quello per l'istruzione, no? Anche per raccontare la storia di questi luoghi che davvero, dice, il Consiglio d'Europa che ha creato l'itinerario europeo dei cimiteri, di cui la Certosa di Bologna è il nodo focale in Europa, dice sono macchine del tempo, noi torniamo indietro una volta, ad esempio oggi si è perso, oggi sono tutti molto, non ci sono, sono standardizzati, ma un tempo gli epitaffi funebri erano estremamente dettagliati, eh? È morto per terribile morbo, colto in giovanissima età da terribile male, quindi si riusciva a capire anche quale poteva essere stata la causa, davvero erano vere e proprie macchine del tempo che ci riportano indietro, e quindi vi consiglio appunto questa cosa. Io devo dire, ho trovato tanti miei antenati al cimitero, il mio piccolo cimitero di campagna, vi dico solo questo, il mio comune ha 4200 abitanti, ha 9 parrocchie e 11 cimiteri, e quindi Bologna, che ne ha 380.000, ha un cimitero, un secondo cimitero che è quello di Borgo Panigale, per la cremazione e i culti non cattolici, tant'è che le vittime di Cutro dalla Calabria musulmane sono state portate a Bologna perché non c'era un altro cimitero adeguato non, appunto per non cattolici. Però ecco, questo è un piccolo cimitero di montagna e questo è Celso. Vi ho detto, tenetevi in mente, Celso era il ruolo matricolare di quel mio antenato che ha fatto la prima guerra mondiale, questa era la sua faccia come appariva. Vicino a lui poi c'è anche la moglie che si chiamava Augusta Alga e che era anche lei una trovatella abbandonata anche lei. Concludo dicendo che a un certo punto, se inizierete la vostra ricerca, arriverete ad una fine che può essere quella appunto figlio di genitore ignoto e quindi purtroppo la storia finisce, ma anche un'informazione mancante, un documento che non si trova, un archivio bruciato, ad esempio qualcosa, le alluvioni penso appunto, ma anche tanti eventi calamitosi che hanno portato alla distruzione, alla dispersione di quel fondo, anche l'impossibilità di accedervi, no? La difficoltà proprio a entrare in un archivio, gli archivi parrocchiali sono archivi privati, teniamo presente che non sono archivi pubblici, quindi quando si entra in un archivio privato bisogna anche entrare con un certo tatto. Quindi ecco, vi consiglio però di iniziare e secondo me alla fine troverete, qualche soddisfazione l'avrete, e un consiglio che vi do l'ultimo, visto che la politica e l'economia sono argomenti molto divisivi, quindi non sono argomenti casomai da trattare nelle cene di Natale o nei pranzi di Pasqua, La genealogia, lo dico proprio per esperienza personale, è stato un ottimo esperimento sociale, perché noi siamo di solito tra i 20 e i 30 tra le 20 e 30 persone a pranzo a Natale, e devo dire che tutti quanti hanno voluto partecipare, dire la loro, raccontare una storia che tutte le volte è diversa, ma devo dire è stato un ottimo modo anche per avvicinare i giovani che stanno, non so, su Facebook, i nonni che giocano a briscola, i genitori che parlano di lavoro e di problemi, quindi ecco, è un modo anche per avvicinare le generazioni e trovare un punto di incontro, quindi ve lo consiglio come esperimento anche proprio in questi momenti di convivialità. E poi, se avete domande, sono qua. Grazie a Matteo Borrelli, al dottor Borrelli, ci ha trasferito non solo l'entusiasmo ma anche una competenza nuova, direi anche molto approfondita e molto specializzata, devo dire complimenti, ecco, parlavo anche con la mia collega, bravissimo, e ci ha spinto proprio, adesso dobbiamo partire anche noi con le nostre ricerche, ma soprattutto ci ha illustrato tanti strumenti. C'è lo spazio per qualche domanda, qualche curiosità, se qualcuno ha voglia di approfittare della presenza del dottor Borrelli per esprimere o per chiedere qualcosa. Posso intervenire un attimo? A proposito di archivi ecclesiastici e delle parrocchie, nel 1816 c'è stata una grande esplosione, un'eruzione vulcanica nell'Asia, il vulcano Tambora, e un tempo fa mi è capitato di vedere un docufilm dove spiegavano che proprio grazie agli archivi parrocchiali si è scoperto che quell'estate è stata un'estate tremenda, dove non c'è stata l'estate di fatto, e che quindi nel 1816 questo ha rappresentato la carestia e la morte di parecchie persone, soprattutto nel centro Europa e nell'arco alpino, perché era quello più diciamo debole, no? Noi abbiamo un'agricoltura, un'economia molto, molto condizionata dall'ambiente, e lo era soprattutto a quei tempi, e quindi la ricchezza, diciamo anche la precisione con cui vengono riportati i dati soprattutto anche la fortuna di averli preservati ci ha aiutato. Non c'entra molto con la genealogia, ma mi riaggancio all'utilità di questi archivi che effettivamente, grazie al cielo, sono stati conservati e soprattutto sono stati pensati originariamente dai parroci. Certo, no, ma infatti poi gli archivi, poi in realtà, ad esempio, dico solo questo, la riscoperta, ad esempio, delle fonti parrocchiali, dei libri parrocchiali ma anche dello Stato civile, è stato soprattutto ad opera della demografia storica. A Bologna, dato proprio i Natali, a un grande, uno dei fondatori della demografia storica in Italia, che è Ato Spellettini, che è stato anche tra l'altro un amministratore del comune, docente all'università, e lui proprio infatti ha riscoperto ad esempio lo Stato civile di Napoleone, ha proprio studiato per quello, per anche raccontare quali erano ad esempio, qual era l'età media a cui ci si sposava, quali erano le patologie più spesso riscontrate negli atti di morte quando il parroco le annotava, quali erano anche le migrazioni, gli spostamenti, perché ad esempio la mia, io vengo da una famiglia di contadini, coloni soprattutto, quindi persone che in realtà non erano contadini, erano persone che non avevano neanche un terreno ma lavoravano per altri, no? E quindi si spostavano spesso andando a lavorare il terreno, il podere, il fondo, di volta in volta, che trovavano, che il padrone gli affidava. E quindi vediamo proprio che un figlio nasce in una parrocchia, poi nasce in un'altra, poi qui si sposa uno, là si sposa anche tra comuni diversi, perché poi io parlo dell'Appennino bolognese, dove provengo, dove proviene la mia famiglia per almeno 500 anni, e quindi devo dire che ecco, è un'ottima fonte proprio per anche conoscere, anche a livello di un territorio, assolutamente la situazione demografica. La genealogia invece va ancora oltre e approfondisce la storia delle singole persone, andando proprio a studiare quei casi che, ad esempio, se per la demografia storica l'interesse è nel valutare il tasso di mortalità infantile, la genealogia studia la storia di ogni bambino morto, raccontandolo in un certo qual modo proprio anche il dolore. Ad esempio, io, questo Stato civile di questo nostro, di questo territorio, di una parrocchia vicino a casa mia, nel giro di un mese questi due genitori abbastanza giovani, tra l'altro era la Pasqua del 1861, marzo, quindi in quei stessi giorni veniva proclamata l'Unità d'Italia, E questi due genitori perdono tre figli, una di 8 anni, una di 1 anno e uno di 15. Uno ad esempio dice morto con i vermini in bocca, quindi pensate quale malattia, e ci fa riflettere anche su quali siano oggi, no? Ad esempio noi oggi stiamo sviluppando un antibiotico resistenza per l'abuso dei farmaci che facciamo, e quando invece in quel tempo l'uso, l'accesso a quelle cure che noi diamo per scontate, che il nostro sistema sanitario ci garantisce, avrebbero potuto salvare tantissime vite che non hanno avuto neanche l'opportunità, la fortuna di diventare grandi, di poter scrivere la loro storia, perché tutte le famiglie che io conosco, nella mia famiglia, tantissimi, devo dire, ci sono sempre stati, qualche bambino morto in giovanissima età c'è stato, e quella è una grande perdita, no? E quelle storie sono ancora più dimenticate perché purtroppo, non avendo avuto una discendenza, non hanno qualcuno che possa, diciamo, che racconti la loro storia come io posso raccontare quella dei miei genitori e dei miei nonni, perché quei bambini sono rimasti così, sospesi nel tempo. Ed è molto brutto perché sono tantissimi quelli che non sono diventati grandi.